E dico a te che stai ballando e fai in finta di niente. Involontariamente scalda l'atmosfera e spera che questo reggaeton duri una nottata intera. Vera sera se raccoglie l'elastico per fare scena e colgo l'occasione elastico. Con questa pantera già me la vedo nuda, tacchi alti, fusto già rettiera. Chiudi gli occhi, esprimi un desiderio, San Vera. Tritona fino, fino al mattino. Zero pensieri, due problemi e voglia di fare casino. E a tempo le muovi sui fianchi, ancora voglia di ballare mentre gli altri sono stanchi. Va avanti e non si ferma mai. Bella lo sai, sei proprio tu che mi dai la possibilità di sognare. Il tuo modo di fare sensuale e il ritmo che sale. Guarda la lì, muove il suo bacino, credo mi avvicinerò. Sento già che di mezzo destino, un trick che mi convincerò. Guarda la lì, muove il suo bacino, credo mi avvicinerò. Sento già che di mezzo destino, un trick che mi convincerò. Guarda lei, cosa è una divina, che gli farei cosa, cosa le mallucina. Ora è vicina, non se la tira, che seratina, lei latina. Ho risparmiato pure la bustina, mira. Vorrei svegliarmi assieme a lei domattina, per stare tutto il tempo assieme, andrei con lei fino in Cina. Quale bacino, su un bacino è la mia medicina. Partiamo a piedi dagli USA, poi in un'isola in Sicilia. Lei mi piglia la veglia, poi fa gli occhi da triglia. Come la coca mi sveglia, tipo una meraviglia. Mentre è fantastico, guardandola qualcosa mi bisbiglia. Ho capito male, baby, ho riparlato di famiglia. Vieni, baby, baby, baby, entra nel mio mondo, chiedi lady, siedi, credimi se non rispondo non è perché son fatto, chiedilo anche a questa gente. E che stanotte ho preso te che sei stupefacente. Guarda la lì, muove il suo bacino, credo mi avvicinerò. Sento già che di mezzo destino, un drink mi convincerò. Guarda la lì, muove il suo bacino, credo mi avvicinerò. Sento già che di mezzo destino, un drink mi convincerò. We'll be right back.